Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. A 30 anni di distanza, a lei che si è occupato appunto di quell'inchiesta, sentir parlare di nuova P2 o P3, che effetto fa? Un déjà vu? Ma in un certo senso sì. Al di là di quello che leggo sui giornali intorno a questa vicenda della cosiddetta P3, io ho fatto ragionamenti di questo tipo. Guarda un po', un centro di potere occulto che a poco a poco, essendo stato disvelato con quelle carte, con il lavorio importantissimo della commissione Anselmi, è diventato un qualche cosa di palese che gestisce oggi operazioni istituzionalmente discutibili, ma in maniera più scoperta, anche un po' sfacciata, ecco. Giuliano Turone è stato uno dei PM milanesi che ha indagato sulla loggia di Licio Gelli. 29 anni dopo quell'inchiesta che portò alla scoperta dei famosi elenchi della P2, delle trame e dei segreti del maestro venerabile, oggi sfoglia i quotidiani e aspetta curioso di vedere come andrà a finire l'indagine romana che contesta di nuovo la partecipazione ad un'associazione segreta. Per Turone una sorta di déjà vu, ammette, nonostante tutte le differenze storiche. Quelle stesse che anni fa, seduto di fronte a noi sui divani di Villa Wanda, fecero dire allo stesso Gelli che la sua loggia era irripetibile. Quali vantaggi avevano le persone che entravano in contatto con lei, con Licio Gelli? Ma vede, in tutto il mondo i Rotary e Lion sono le anticamere della massoneria. A quasi nessuna è capitato di essere coinvolta o comunque tirata in ballo con quasi tutti i principali misteri d'Italia. E questo è un mistero, perché questo è lo scandalo nello scandalo, perché è stato fatto perché in quel momento c'era bisogno di uno scandalo per distrarre l'attenzione degli italiani da situazioni piuttosto gravi. Ma lei la P2 oggi la considera il suo capolavoro o la sua maledizione? A parte tutto è irripetibile, non si può mai fare. Si estraniava da tutti i titoli politici perché non aveva dottrine. La massoneria non è legata a nessun partito. Se è vero che dalla massoneria non si esce mai, è solo un fratello assonnato, il maestro venerabile della loggia Propaganda 2, metà Belzebù, metà politico, un uomo che è un mistero e che è stato coinvolto in tutti i misteri d'Italia. E a sciogliere il gomitolo dei 100 fili intrecciati della temuta loggia con la scoperta degli elenchi degli iscritti furono due giovani magistrati milanesi, Gherardo Colombo e Giuliano Turone, appunto. L'inchiesta che si è fatta quasi 30 anni fa, si sono trovati i documenti della loggia P2, no? Era in un contesto abbastanza consono a quegli anni, si stava indagando su determinati comportamenti di Michele Sindona e di tutti coloro che gli stavano intorno, si stava indagando sui piani di salvataggio del bancarottiere, sul suo finto rapimento, la sua scomparsa che poi si è risolta in un soggiorno clandestino a Palermo affiancato da personaggi della mafia siciliana e di altri personaggi in un contesto che ha portato a dover chiarire i rapporti fra Sindona e il suo entourage e l'ambiente che faceva capo a Licio Gelli. Oltretutto l'indagine riguardava anche l'omicidio di Ambrosoli. Tutta questa serie di cose ci ha portato a un certo punto, essendo emerso che durante il soggiorno clandestino a Palermo Sindona aveva cercato tramite alcuni personaggi un contatto più volte con Licio Gelli, si ritenne di fare una serie di perquisizioni in tutti i recapiti noti di Licio Gelli. C'era anche un recapito ignoto ai più che era stato reperito sull'agendina di Sindona, quello di Castiglion Fibocchi, certo, dell'azienda. C'era un ufficio abbastanza camuffato e in quell'ufficio effettivamente si sono trovate e sequestrate le famose liste con le famose 33 o giù di lì buste sigillate contenenti documenti estremamente rilevanti, esplosivi, Banco Ambrosiano, Rizzoli, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quello era un contesto particolare che portò alla scoperta di una loggia massonica coperta, la cui esistenza comunque già era nota. Però se ne sapeva molto poco, si sapeva già che Licio Gelli era il gran maestro di una loggia coperta chiamata P2, però di questa cosa si avevano soltanto notizie molto nebulose e la cosa emerse appunto nell'81, nel marzo 81, con quel che è seguito. Certo, con la famosa perquisizione, la scoperta delle liste e poi la decisione anche del governo di rendere pubbliche quelle liste, ma a 30 anni di distanza, a lei che si è occupato appunto di quell'inchiesta, sentir parlare di nuova P2 o P3, a seconda delle definizioni, con una nuova contestazione di aver violato la legge Anselmi, appunto la legge sulle logge segrete, che effetto fa? Un déjà vu? Ma in un certo senso sì, io ho fatto qualche riflessione su quello che è stato poi della loggia P2 negli anni successivi, nei decenni successivi e fino a oggi, e la cosa che mi è sembrato di cogliere è apparso abbastanza chiaro, e questo però appare molto chiaro dalla relazione Anselmi, perché non dimentichiamo che poi il documento chiave sulla P2, al di là delle carte giudiziarie che hanno uno spaccato sempre specifico a determinati comportamenti. Certo, penalmente rilevanti, fu quello della commissione presieduta da Anselmi. La commissione Anselmi è riuscita a costruire il significato della loggia P2 ed ha costruito l'immagine di una lobby potentissima che aveva trovato percorsi alternativi rispetto a quelli formalmente previsti dalla Costituzione per gestire situazioni di grande rilevanza pubblica attraverso canali clandestini invece che attraverso i canali istituzionali corretti. Tutto ciò avveniva in maniera occulta, mentre poi successivamente, una volta disvelata la loggia P2, questi comportamenti si sono riprodotti, diciamo, più successivamente in maniera più palese, e quindi al di là di quello che leggo sui giornali di tempi recenti su quello che sta intorno a questa vicenda della cosiddetta P3, io ho fatto ragionamenti di questo tipo: guarda un po', un centro di potere occulto che a poco a poco, essendo stato disvelato con quelle carte, con il lavorio importantissimo della commissione Anselmi, è diventato un qualche cosa di palese che gestisce oggi operazioni istituzionalmente discutibili, ma in maniera più scoperta, anche un po' sfacciata, ecco. E queste sono, diciamo, le similitudini, se si può usare questo termine, tra vecchia e nuova P2, cioè questa rete degli amici degli amici? Sì, in effetti è così, però appunto non so che cosa ci sia, che cosa sia stato acclarato. Evidentemente hanno colto qualche cosa di specificamente significativo in quel senso, perché hanno contestato il reato di associazione segreta. Hanno contestato il reato della legge Anselmi, la violazione della legge Anselmi. Sono molto curioso di vedere che cosa verrà fuori nel prossimo futuro, perché effettivamente è abbastanza di rilievo come cosa, perché se non sbaglio è la prima volta che è stato contestato questo reato di associazione segreta. È stato anche già in qualche modo detto che è un reato, diciamo, difficile da dimostrare e un reato, diciamo, difficile da portare in un dibattimento. Per noi il punto è radicalmente diverso, perché quando noi abbiamo fatto quelle inchieste sui casi di Sindona non esisteva nessun reato di associazione segreta. Certo. Ma quel reato di associazione segreta che poi è stato costruito dal legislatore non era applicabile a fatti precedenti. Noi del resto per altri articoli del codice penale, l'omicidio, tanto per cominciare l'omicidio Ambrosoli, e poi una serie di truffe, estorsioni e altri reati di questo genere, le minacce allo stesso Ambrosoli, le minacce a Enrico Cuccia, le estorsioni ai danni di Enrico Cuccia, le estorsioni ai danni dello stesso Roberto Calvi, perché l'entourage di Sindona aspirava a trovare ancore di salvataggio per far sì che Sindona uscisse dai suoi guai giudiziari. Però la vostra inchiesta sul fronte, diciamo, della accusa, quella più complessiva, quella dell'associazione, poi quando l'inchiesta da Milano fu spostata a Roma, quel reato cadde. I magistrati di Roma, quando hanno ottenuto questo passaggio di tutte le carte a Roma, c'è stata una sentenza della Cassazione sezione feriale, sì, il 2 settembre dell'81, che ha riconosciuto che la competenza dovesse appartenere a Roma, ma questa richiesta di Roma era dovuta al fatto che la procura a quell'epoca aveva contestato un reato, quello sì di difficilissima prova, che era il reato di cospirazione politica contro l'istituzione. Cospirazione politica mediante associazione. Sta di fatto che le indagini a Roma, tanto per cominciare, languirono a lungo. Questo incartamento processuale, piuttosto scomodo e esplosivo, romano, ha cambiato mano, il sostituto che l'ha avuto in mano per ultimo ha cercato effettivamente di fare delle indagini serie, ma ormai era passato un po' di tempo. E lei stessa, la dottoressa Cesqui, se ben ricordo, disse: mi è arrivata sulla scrivania già morta quell'inchiesta. La dottoressa Cesqui l'ha ricevuto soltanto parecchio tempo dopo. Anche perché incombeva la prescrizione ormai già anche su molti. Naturalmente, comunque il fascicolo poi sappiamo che è arrivato in corte d'assise, in sostanza la montagna ha partorito il topolino, come era inevitabile visto che poi era stato quello l'andamento della fase istruttoria. Ricordo certo. Che sono stati condannati alcuni imputati per reati molto molto minori. Gelli è stato condannato per la calunnia ai danni miei di Colombo, per esempio. La notizia la diede il telegiornale della sera. È il 20 marzo 1981 quando la Presidenza del Consiglio decise di rendere pubblici gli elenchi della loggia P2, quelli trovati durante la perquisizione disposta dai PM Turone e Colombo. All'interno ci sono i nomi di tutti i vertici politici, militari e istituzionali del paese. È la P2 di Licio Gelli e Tina Anselmi, il presidente della commissione d'inchiesta, la definì così. La commissione che ho presieduto ha detto che la P2 è stata un'organizzazione che ha cercato all'interno delle istituzioni di controllare, di condizionare la vita politica del paese. Proprio da Tina Anselmi prende il nome la legge contestata ora nella recente indagine romana sulla cosiddetta nuova P2. Differenze storiche ma anche similitudini ci sono tra l'inchiesta di oggi e quella di quasi 30 anni fa, avviata, come abbiamo ripercorso nella prima parte di Storiacce, dal PM milanese Giuliano Turone. Anche allora, come oggi, erano coinvolti anche dei magistrati. Questo ad un magistrato che effetto fa? Il fatto di vedere, per esempio, che un certo numero di magistrati fossero entrati nella loggia segreta, evidentemente ha fatto una certa impressione, ma in realtà l'impressione l'ha fatta l'intero contesto, perché sì, c'erano dei magistrati, alcuni, però diciamo la verità, il Consiglio Superiore è intervenuto anche abbastanza severamente contro i magistrati che erano iscritti alla P2, né? Mentre altrove invece le iscrizioni non hanno avuto nessun risvolto negativo per coloro che erano nella loggia. Quello che faceva più impressione è che ci fossero tanti pubblici ufficiali anche di altissimo livello, perché al di là dei magistrati che erano una quindicina, una dozzina e che sono stati sanzionati comunque sul piano disciplinare, c'erano i vertici dei servizi segreti, il comandante in capo della Guardia di Finanza. Tenga presente che noi ci servivamo di finanzieri per fare le nostre indagini, quindi le perquisizioni ai recapiti di Gelli erano state affidate a ufficiali di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza, con la consegna fatta, l'ordine specifico fatto da noi giudici istruttori, di non avvisare neanche gli uffici loro territorialmente competenti. Infatti sono andati a sorpresa sia a Roma che a Arezzo, a Castiglion Fibocchi, senza fare la solita comunicazione di cortesia che in genere gli ufficiali di polizia fanno ai comandi competenti quando vanno a fare per esempio una perquisizione fuori dal loro territorio. Certo, se ricordo bene, il vostro colonnello della Guardia di Finanza era Vincenzo Bianchi, a cui deste un mandato della perquisizione, diciamo quella principale, quella nelle abitazioni di Gelli, senza comunicazione appunto ai vertici. Lei è stato in vacanza, queste notizie le ha seguite? In questi 20 giorni io ero da tutt'altra parte, dove non si riusciva neanche a vedere giornali italiani, solo un giorno sono riuscito in internet a vedere un giornale italiano. Bene o male, in 20 giorni non è che possano cambiare lo scenario. Certo, a meno che non sbuchi anche in questo caso un elenco. Ah, questo non lo so io, è il colpo di scena come ogni tanto capita. Quello che le chiedevo io, a lei rispetto alla vecchia inchiesta c'è qualche curiosità che le è rimasta? Io di curiosità ne ho tante, di vario tipo. In realtà l'inchiesta nostra ha portato a dei chiarimenti abbastanza soddisfacenti per quel che riguardava l'inchiesta nostra. Le vicende di Sindona sono state chiarite molto bene, certo. Sono state poi riconosciute da tutti i gradi di giudizio, anche la famosa morte di Sindona è stato chiarito che era un suicidio camuffato da omicidio. Il famoso caffè. Sì, quindi sul piano della nostra inchiesta si può anche domandare qualche cosa in più, naturalmente, com'è possibile che tutto questo possa nascere a monte anche di quello che ha scoperto la commissione d'inchiesta. Ci sono tanti interrogativi su tante cose che potrebbero essere poi in varia misura collegate fra loro in via anche magari inaspettata o quantomeno un po' stravagante. Tutto il patatrac del Banco Ambrosiano che è venuto fuori dopo in tutt'altra inchiesta. E per il crack del Banco Ambrosiano fu condannato a 8 anni e 6 mesi anche Flavio Carboni, faccendiere sardo, arrestato ora nelle indagini sugli appalti per l'eolico e la nuova P2 appunto, e già coinvolto, quasi come Gelli, in decine di misteri italiani, dalla banda della Magliana all'omicidio di Roberto Calvi al caso Orlandi. In tutti però è stato assolto. Un nome che ricompare dunque anche a distanza di 30 anni e che resta per molti un grande mistero, quasi quanto il giallo sul fantomatico secondo elenco degli iscritti alla P2 di Gelli. Un elenco mai trovato, ma su cui Turone ha un'idea ben precisa. Io sono contrario a buttare lì ipotesi, però le posso dire questo, che gli elenchi trovati erano chiaramente integri, perché erano più d'uno, era quello in ordine alfabetico, era quello in ordine di posizioni e così via, tutti quanti con le loro pagine numerate, non mancava niente. Che poi si parlasse e risultasse in effetti l'esistenza da parte di dichiarazioni rese da persone che sono state sentite, cioè che ci potessero essere, ci fossero i cosiddetti iscritti all'orecchio del Gran Maestro, no? Certo. Ecco, questi io non posso dir nulla di preciso perché non si è avuto modo di capire qualcosa di più su questa categoria nebulosa degli scritti all'orecchio del Gran Maestro. Ma io quando sento parlare di un secondo elenco misterioso che non si è trovato, posso pensare che abbia qualche riferimento a questa storia dell'orecchio del Gran Maestro. Poi che questo orecchio del Gran Maestro sia stato messo per iscritto da qualche parte, si è rimasto soltanto nella memoria di Licio Gelli, questo chi lo sa, come facciamo a saperlo? Non è possibile saperlo. E su questo Gelli cosa dice? Ti fughi un mistero. Si è tanto detto dell'esistenza di un secondo elenco della P2, oltre a quello trovato nella famosa perquisizione di Castiglion Fibocchi. Esiste? Non l'ho mai veduto. Il secondo elenco non l'ho mai veduto. Quindi non esiste? Non esiste. Vivevo per un periodo di tempo, dicevo, beh, stamane che cosa i giornali mi attribuiscono? Se il secondo elenco della P2 al momento sembra restare nei segreti o nelle leggende intorno al maestro venerabile, quando il primo fu trovato nel lontano 1981, per l'Italia fu un colpo durissimo. Il paese scoprì un potere sotterraneo, una rete composta da 4 ministri, 44 parlamentari, i vertici dell'intelligence, alti ufficiali delle forze dell'ordine, magistrati, banchieri, giornalisti, una sfilza di nomi di tale peso che indusse i magistrati Colombo e Turone ad informare l'allora capo del governo Arnaldo Forlani. Chiaramente, vista la presenza di tutti quegli altissimi ufficiali, c'era anche un paio di ministri, qualche sottosegretario, quindi lo stesso governo era in qualche misura interessato, proprio come alcune persone iscritte, risultate negli elenchi, insomma. Abbiamo ritenuto che fosse doveroso avvisare, informare il capo del governo, quindi abbiamo chiesto un appuntamento e siamo andati. Siamo stati ricevuti dal capo di gabinetto dell'onorevole Forlani, che sapevamo benissimo che era uno di quelli nell'elenco della P2, però l'avevamo preventivato, sapevamo che avremmo trovato questo signore che ci avrebbe introdotto lui dal premier. È stato abbastanza singolare, se vogliamo, però questo è. Ciascuno sapeva il ruolo dell'altro, insomma. Sì. Naturalmente, sì, ciascuno sapeva che quello sapeva, che lui sapeva, che no, c'era questa consapevolezza, c'era. Poi con il presidente Forlani gli abbiamo presentato un certo numero di fotocopie autentiche di una parte di quella documentazione particolarmente così significativa per lui e per il suo ruolo. Che cosa vi disse Forlani? Forlani era evidentemente così turbato da questa cosa. Sulle prime ha detto: ma non è che ci sia qualcosa di fasullo. Poi guardando si è messo lì a confrontare firme che aveva lui con le firme delle carte che gli avevamo portato noi, alla fine ha detto: eh sì, sembra proprio che sia così. Ricordo che ha detto: beh, visto che c'è anche il mio capo di gabinetto, queste carte me le porto a casa. Questo è successo. E di lì a poco poi ci fu la decisione. Poi c'è stato quanto di competenza del potere esecutivo. Poi la commissione parlamentare sul caso Sindona, che già esisteva, chiesero anche loro le carte e poi alla fine si costituì la commissione Anselmi, chiesero tutte le carte. Noi avevamo fatto di tutto questo poderoso quantitativo di carte, avevamo fatto 3 copie autentiche, autenticando foglio per foglio, restando su tutta la notte con un cancelliere, facendo 3 copie autentiche che abbiamo messo in 3 posti diversi. Che tenevate lei, Colombo e il dottor Forno, se ricordo bene. Era solo Colombo, il dottor Forno era un nostro collega giudice istruttore, al quale avevamo affidato uno dei malloppi che lui avrebbe tenuto nascosto in un armadio cassaforte del suo ufficio, perché noi avevamo un certo timore, visto la cosa quant'era esplosiva, che si capiva perfettamente. Quindi non vi fidavate neanche dello stesso Palazzo di Giustizia? Ma insomma, per essere sicuri di tutto quanto, abbiamo ritenuto opportuno fare queste tre copie autentiche. Una è stata tenuta in una cassaforte, in un'altra cassaforte c'erano gli originali, in una terza cassaforte alla Guardia di Finanza c'era un altro pacco, diciamo così, e l'altro pacco, ancora per essere ancora più realisti del re, l'abbiamo camuffato come se fosse un processo di terrorismo e l'abbiamo affidato a un collega che si stava occupando appunto di terrorismo. Quindi un po' tutte le tecniche per cercare di proteggere la vostra inchiesta, un po' quasi le peripezie che a volte i magistrati che si occupano di mafia fanno. La Guardia di Finanza ha mandato un servizio di scorta alla stanza dove erano custodite queste cose. E sentendo i suoi racconti sembrano quasi quelli di alcuni magistrati che si occupano di mafia, che devono schivare anche in tempi ben più recenti rispetto alla vostra inchiesta anche tutto il capitolo talpe che spesso si nascondono negli stessi palazzi di giustizia, come è successo a Palermo ad esempio. Ma secondo lei, in quel momento, anche quando ci fu la decisione di Forlani poi di rendere pubblici quegli elenchi, esisteva davvero un rischio per la tenuta della democrazia e della Repubblica italiana? Tutto sommato era una situazione indubbiamente inquietante, ma io credo che a quell'epoca il nostro sistema democratico, con tutti gli inconvenienti e le zone d'ombra che c'erano evidentemente, avesse anche gli anticorpi per mantenersi. Io confido nel fatto che finché la Costituzione della nostra Repubblica tiene anche la possibilità di avere anticorpi che impediscono degenerazioni proprio rovinose, diciamo. Vi ricordo che potete riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, sul sito radio24.it e a partire dalla pagina del programma si può avere accesso anche al nuovo blog, il blog di Storiacce. Ciao, a sabato!